известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. I believe in the interest not only of the Palestinians, but also the Israelis and the United States and the international community to achieve a two-state solution in which Israelis and Palestinians are living side by side in peace and security. I share with you very much the desire to move the peace process forward. And I want to start peace negotiations with the Palestinians immediately. Queste sono le voci di Barack Obama e di Benjamin Netanyahu al termine dell'incontro che ha avuto luogo ieri pomeriggio, ora italiana, a Washington, tra i due leader degli Stati Uniti e di Israele, un incontro sul quale oggi si accaniscono, si arrovellano le testate di tutto il mondo per decifrarne il vero significato, il senso soprattutto che ha preso, la direzione di marcia. Ha messo in un concesso che una marcia sia veramente cominciata nel procedimento di avvicinamento, di presa di contatto di questi due personaggi, che poi è anche una presa di contatto, inutile nasconderlo, anche di carattere personale. Sono anche due uomini che si incontrano, si conoscono e devono cominciare a lavorare insieme, sempre che ci riescano. Ci eravamo lasciati ieri con Ugo Tramballi, l'inviato del Sole 24 Ore, che aveva espresso la sua personale, il suo personale pessimismo, i suoi grandi dubbi sugli esiti dell'incontro. Siamo passati attraverso questa presentazione che ci hanno dato i due protagonisti delle intenzioni, dove certamente è la prudenza a trionfare, la rappresentazione, la descrizione di un gran desiderio, di una grande intenzione di fare in modo che le cose vadano come ciascuno pensa che debbano andare, ma poi la coincidenza fra i due pensieri è tutta da verificare, ma in realtà di fattivo per ora nulla. I temi in ballo sono essenzialmente due. Adesso proviamo ad esaminarli con la consueta collaborazione Maria Grazia Nardu, ricercatrice di storia internazionale all'Università di Firenze, insegna storia di Israele moderno. Buon pomeriggio, Maria Grazia. Maria Grazia, buon pomeriggio, mi senti? Io sì, voi mi sentite? Eccoci qua, sì certo. Due punti voglio sottoporre alla tua attenzione, individuandoli come centrali in questa prima presa di contatto fra Netanyahu e Obama. La questione dei due stati, per come è stata posta da Obama e per come è stata, secondo me, abbastanza elegantemente, diciamo così, dribblata, aggirata, fatto finta di niente, non so di un po' come ti pare, da Netanyahu, che comunque non ha parlato effettivamente di soluzioni due stati, ha detto che vuole risolvere la questione palestinese, e poi dopo magari passiamo a parlare forse della vera priorità, che si chiama Iran. Ma parliamo prima appunto di quello che Obama ha detto in modo più chiaro. Ha detto: io voglio due stati, due nazioni in cui due popoli si vedano, si riconoscano, si vedano rappresentati e governati. Netanyahu non è chiaramente sulla stessa lunghezza d'onda, è difficile, no, girare intorno alla questione, mi sembra non sia sulla stessa lunghezza d'onda, che ne dici? Non sono sulla stessa lunghezza d'onda e non possono certo esserlo nel maggio del 2009, perché Netanyahu sta tornando a casa a Gerusalemme, dove lo aspetta un governo di tutta destra, e se lui sbarcasse dall'aereo dopo aver pronunciato la parola due stati, il governo crollerebbe molto rapidamente. Quindi lui è obbligato dalla coalizione che ha scelto di formare, evitando di fare la grande coalizione con Kadima, che avrebbe potuto avere un significato diverso, è costretto da questa sua scelta a giocare le carte che si è dato due mesi fa. Questo però non significa che non si faranno dei passi nella vera direzione voluta dagli americani, anche perché credo che il dato più importante di questo incontro pubblico, che segue a manovre politico-diplomatiche visibili e invisibili nelle precedenti settimane, è che gli americani stanno riscrivendo le regole del gioco dei rapporti con Israele, e questo Netanyahu lo sa. È anche molto interessante ed importante che l'incontro tra questi due capi di Stato, primo ministro, nel caso di Netanyahu, è stato molto lungo, con una lunghissima parte a quattro occhi. Pare che sia il più lungo incontro al vertice che Obama abbia concesso a un primo ministro straniero. Quindi una sensazione, ma una sensazione che in realtà, dalle richieste che Obama e il suo staff starebbero facendo nei confronti del vertice israeliano, soprattutto in vista di questa data ormai già un po' fatale, no, del 4 giugno, quando Obama parlerà, da oggi tra l'altro si sa anche dove parlerà all'Università del Cairo, e desidererà, suppongo, profondamente avere degli argomenti, no, nella sua cartelletta da esporre come cambio di regime, insomma, come onda nuova americana. C'è anche in relazione a tutto ciò, c'è stata, sembra, anche una richiesta da parte di Obama a Netanyahu di dare dei segnali, no, riguardo, certo, a quel disgelamento della situazione nei territori. Cosa possiamo dire a riguardo? Che il primo e immediato segnale lo si vedrà subito, lo si vedrà anche con i satelliti volendo, cioè il congelamento, certo, vero degli insediamenti, e non mi riferisco alle case da costruire, ma anche alle roulotte che girano, agli attendamenti che a volte si spostano. E l'altro segnale immediato è la riduzione dei checkpoint e la ripresa dei rifornimenti a Gaza. Questo è immediatamente misurabile e lo sarà ancora di più nei prossimissimi appuntamenti di Obama, che sono la visita a Washington di Mubarak e di Abu Mazen, il presidente dell'autorità, certo, palestinese, certo, che sarà il primo feedback di queste primissime mosse. Anche se ieri ne parlavamo con Tramballi del Sole, i segnali erano stati un po' diversi, no? Praticamente in coincidenza con l'arrivo di Netanyahu alla Casa Bianca erano spuntate da Israele delle notizie, delle agenzie che parlavano addirittura di attività immobiliari, tra virgolette, insomma, nei territori, che sembravano andare in tutt'altra direzione. Certo, non solo nei territori, ma nella valle del Giordano, cioè quanto, certo, di più, certo, lontano ci sia dalla linea verde, è stata sicuramente una infelice coincidenza, perché erano 3 anni che si parlava di fare in quell'insediamento, però forse il governo israeliano poteva avere la sensibilità di ordinare, di rimandare l'avvio ufficiale. Ecco, ragazzi, tra l'altro Emiliano mi ha appena portato un'agenzia che esce ora, la richiesta di Obama per il totale congelamento della costruzione di insediamenti ebraici in Cisgiordania avrebbe suscitato risposte negative da parte di un rappresentante dei coloni israeliani, si chiama Danny Dayan, presidente del Consiglio degli insediamenti in Cisgiordania, che ha affermato alla radio delle forze armate che Israele non ha alcun obbligo di arrestare le costruzioni, poiché i palestinesi non hanno onorato il loro impegno, che è prioritario, di porre fine al terrorismo. Come dire, argomenti già sentiti, no? Siamo alle solite. Il capo del movimento dei coloni non può dire nulla di diverso. Certo. Niente di non più. Ti sorprende? No, assolutamente no. E in questi primi passi ognuno deve recitare la sua parte fino in fondo. Certo, certo. Però è anche vero che le pressioni americane sono state veramente forti. Tutti abbiamo sentito della visita del capo della CIA a Gerusalemme per spiegare chiaramente al governo italiano che non devono sognarsi di fare sorprese sull'Iran. Meno noto forse è che la visita di Netanyahu doveva avvenire all'inizio di maggio, in coincidenza con la conferenza dell'AIPAC, la lobby filo israeliana in America, ma la visita non è avvenuta perché Netanyahu voleva essere ricevuto da Obama e Obama gli ha fatto sapere che non l'avrebbe visto. A questo punto Netanyahu ha rinunciato, ha mandato Peres e così via. Anche questo dice molto su questo nuovo corso americano. Oh, in questi minuti, tra l'altro, Netanyahu dovrebbe essere a colloquio con Nancy Pelosi. Passiamo rapidamente però a dire due parole sul secondo argomento, anzi quello su cui hanno speso più parole anche nella loro conferenza congiunta Obama e Netanyahu. La minaccia di un Iran nucleare è stato l'altro argomento al centro dell'incontro Obama-Netanyahu. Obama avrebbe ribadito che gli Stati Uniti intendono perseguire con Teheran la strada del dialogo, aggiunto che questa scelta naturalmente è condizionata ai risultati che produrrà. Un suo virgolettato è: non desidero stabilire scadenze artificiali, ma desideriamo ottenere progressi entro la fine dell'anno. Anche su questo, diciamo, Netanyahu ha assunto, vogliamo chiamarlo, un atteggiamento interlocutorio, Maria Grazia? Netanyahu ha un atteggiamento fermissimo, per lui il problema israeliano numero uno è l'Iran, il numero due è l'Iran e il numero tre è l'Iran, su questo non si spostano di un millimetro. Però per quanto riguarda l'Iran bisogna la scadenza di fine d'anno che si è dato Obama, una scadenza realistica, perché bisogna aspettare le elezioni di giugno, che saranno un segnale importantissimo ma non totalmente determinante, e vedere come l'opinione pubblica iraniana, che è molto più filoamericana di quanto noi non crediamo, sceglierà di gestire i prossimi mesi e il futuro. Quindi, se volessimo dire, se provassimo a stendere un piccolo giudizio su questo inizio di contatto, questa presa di contatto Obama-Netanyahu, cosa vuoi dire? Che si sono presi le misure e sicuramente ognuno di loro sa cosa farà l'altro, e se dovessi scommettere su uno dei due scommetterei sulla superpotenza e non su una piccola potenza regionale. Grazie a Maria Grazia Nardo, quindi si sono visti, hanno cominciato a parlare, vi ricordo l'appuntamento di Obama in Europa e poi in Egitto, ormai è dietro l'angolo, tutto si muove assai rapidamente, il 4 giugno è arrivata oggi la conferma ufficiale, Barack Obama parlerà all'Università del Cairo. Pull the curtains on the day. Sometimes it is the only way. Sono Grand Daddy, una delle band, voi direte chi se ne frega, personalmente favorite, peraltro non ci sono più, si sono sciolti, ma galleggiano spesso e volentieri qui dalle parti di Jefferson, poi questa si chiamava Tiriamo il sipario e non ce la potevamo risparmiare dopo aver così filosofeggiato attorno a questo incontro che continuiamo a considerare con un certo scetticismo, ma vedremo poi se le cose andranno meglio in un vicino futuro. Passiamo adesso a un appuntamento non è più quotidiano, ma sta prendendo una scadenza, caro Emiliano, molto casuale. Semi-quotidiano. Casualino, nel senso che siamo affidati alle onde, non abbiamo mai capito bene. Del destino di chi, Facebook. Di chi le governa, comunque. I messaggi arrivano poco e male, di conseguenza noi lanciamo dei nuovi temi allorché siamo certi che i precedenti vi hanno raggiunto. Prendiamo spunto, come faremo poi anche nella conversazione delle 4:30 con Mario Platero, ma dalla apparizione di Barack Obama all'Università di Notre Dame, una laurea honoris causa che però poi è stata occasione di contestazioni ma anche di chiarimenti da parte del presidente americano. Il tema comunque era l'aborto, l'antiabortismo, la maggioranza segnalata da Gallup di americani che sono su posizioni antiabortiste, un presidente che la pensa diversamente, che ha saputo, devo dire, a parere mio, prodigiosamente gestire una situazione in sostanza piuttosto imbarazzante, anche di una certa difficoltà. E ve l'abbiamo sottoposta al vostro giudizio, parole come le seguenti pronunciate da Obama: riduciamo gli aborti riducendo le gravidanze indesiderate, rendendo le adozioni più facili, dando aiuto e sostegno alle donne che si tengono il bambino, con una clausola di coscienza e rivolta al fronte laico e con l'impegno a politiche sanitarie basate sull'etica e la scienza, assieme al rispetto per l'eguaglianza delle donne. Ma questa è la chiave di tutto. Barack Obama ha detto: non pretendiamo di convincere chi non è d'accordo con noi, però rispettiamolo. Bisogna dire che difficilmente c'è un tema più dividente dell'aborto, almeno certo, storicamente, che qui in Italia, però mi fa molto piacere che i nostri ascoltatori non si sono limitati a dei semplici pro o contro, ma hanno in realtà articolato i loro ragionamenti con sfumature, devo dire, molto interessanti e molto diverse tra loro. Allora, comincerei da Francesco. Essenziale, quasi ermetico, dice: come sempre impeccabile Obama, condivido in pieno. Poi c'è Mukeba, che solleva invece un grosso interrogativo. Dice: la proposta non è male, sostegno e prevenzione, ma dove li trova i soldi, visto anche, aggiungo io, il momento di grossa crisi? E poi c'è Sergio, molto, molto articolato, un pensiero molto fine il suo e anche direi dotto, perché da un lato dice: nessuno può essere a ragione favorevole all'aborto, ma la ragione impone libertà di scelta. E poi fa una lunga citazione di George Carlin, grande attore, comico, ho scoperto, Stefano, anche guardando internet, cantante. Qui viene citato un suo brano da Back in Town del 96, cerco di tradurre un po' all'impronta, un linguaggio molto ruvido, come spesso faceva. Carlin: pro-life, tu non vedi nessuna donna antiabortista bianca che volontariamente si fa innestare dei feti neri nel suo utero, no, tu non vedi donne bianche che adottano bambini nati da madri tossicodipendenti, no, ma tutto questo potrebbe piacere a Cristo. Quindi parole pesanti, dure, ma che fanno riflettere, di George Carlin. Una richiesta di coerenza e ancora, ripeto, di rispetto, perché questa è un po' la parola chiave di questo nuovo episodio importante della presenza pubblica di Barack Obama. Non dobbiamo ridurre a caricatura chi non la pensa come noi, ha detto ancora. Luca osserva che è la politica, baby, quindi lui sa come si fa, in sostanza. Sandro: il cosiddetto melting pot non è solo razziale, ma anche ideale. Negli Stati Uniti ci sono forti lobby fondamentaliste di tutti i tipi. Forse Obama cerca di affrontare i problemi legati a tensioni ideali religiose uno a uno. Buona fortuna, è il primo che ci provi seriamente. Flavio: continua a vedere in Obama un portatore sano di una nuova visione della politica, seppure nel solco del pensiero americano. Perfettamente d'accordo. E allora, mentre Dragos pone una domanda direi più che legittima, si chiede: ma le donne cosa dicono? Non riesco a capire, perché quando si parla di questo argomento risponde sempre il Vaticano, e aggiunge Dragos, Giuliano Ferrara, quindi se la prende col nostro conduttore del mattino. Poi c'è invece Dario, che dice: mi sembra di essere l'unico a pensare che Obama abbia pronunciato un discorso da piede in due scarpe, cercando infatti la conciliazione con il popolo conservatore, non rinunciando però alle sue idee. Quello è il lavoro che fa lui, ormai è piuttosto chiaro il solco. Volevo sottolineare che Flavio lo paragona anche a Nicky Vendola, dice: lo sarà, vedo come una sorta Vendola, di Nicky Vendola americano. Giovanni dice: in Italia al Papa viene impedito di parlare nelle università, giusto. Negli Stati Uniti il Presidente Obama può andare in una università cattolica a dire la sua opinione, esatto, è proprio così. Antonio: libertà nella democrazia significa che uno Stato deve offrire a ognuno la possibilità di poter fare le proprie scelte di vita e di comportamento, in base alle proprie convinzioni, purché nel rispetto delle leggi. E infine Massimo dice: i bimbi vanno fatti quando si desiderano, potrà sembrare cinico, ma la pura e unica sacrosanta verità, d'accordo Massimo, però se tu fossi americano dovresti sapere che in questo momento saresti parte di una minoranza. Well, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but the next time coming, you better run. Well, he said, all right, where you want this killing done? God said, on Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Well, 35 Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Dunque, abbiamo parlato di un Barack Obama, fronte internazionale che si misura, come dire, con un certo impeto, ma anche con risultati alterni, o perlomeno del tutto interlocutori, almeno per il momento, con Benjamin Netanyahu nel vertice di ieri. E invece abbiamo poi così sfiorato nello spazio Express Yourself il tema che ora vogliamo discutere con il nostro e vostro amico Mario Platero, che ci ascolta da New York, che è la performance offerta da Barack Obama alla Università di Notre Dame nell'Indiana, università celebre, anzi la più celebre università cattolica d'America, South Bend, Indiana, dove gli è stata tributata una laurea onorevole, ma nel corso del quale ha affrontato, anzi, come dice il titolo di un bel pezzo a firma di Igideon su New Republic, come ha spiazzato i suoi critici attorno a una faccenda rovente in questo momento in America, ma un po' sempre in America, che si chiama aborto, all'indomani poi della pubblicazione di un sondaggio Gallup che fa sapere che gli americani sull'aborto stanno cambiando idea quasi in massa, insomma, e ora in maggioranza potrebbero, usiamo un condizionale, essere classificati anti-abortisti. Ma il piccolo grande capolavoro offerto da Obama in questa sede è stata quella, come aveva fatto nel famoso discorso della razza un anno e due mesi fa, è stato quello di affrontare il discorso restando sulle sue posizioni, rispettando le posizioni degli avversari, non proponendo tanto un armistizio quanto una ricerca di una possibile migliore soluzione possibile, ma nel rispetto, no, della diversità. E questo, insomma, lasciatemelo dire, da un punto di vista anche politico in se stesso, mi sembra sicuramente non una novità, ma qualcosa che va sottolineato. Sentiamo che cosa ne pensa Mario, che parlando a New York poi ha un altro scenario su cui ci potrà dare notizie e approfondimenti: il fatto che lo Stato di New York sta unendosi a una comunità particolare, ma ne parleremo tra un po'. Ciao Mario. Eccoci. Allora, come giudichi? No, come giudichi la questione dell'aborto? Sì, come dicevi, Obama è stato come sempre magistrale, perché poi ha detto e non ha detto. E la cosa interessante è che da sempre in campagna elettorale e dopo la campagna elettorale, Barack Obama su alcuni dei temi caldi che hanno diviso destra e sinistra ha sempre detto che a questo punto, nel 2009, bisognava superare le cosiddette guerre culturali, metterle da parte, rendersi conto che su alcune cose bisogna imparare a convivere, e a convivere bene, e a guardare poi invece all'interesse del paese, senza così sgretolare il tessuto che invece è fondamentale per poter affrontare ad esempio la crisi economica, le crisi di politica estera e così via, così via. E Obama ha vinto le elezioni sulla base di una piattaforma così unitaria, sull'idea del tendere la mano, sull'idea di fare le cose insieme, e dunque l'ha portata in avanti. Questa sua performance all'Università di Notre Dame doveva essere così l'esempio concreto e simbolico allo stesso tempo di come queste guerre culturali si possono superare. Ricordiamolo, Notre Dame è una delle più importanti università cattoliche americane, in Indiana, e quindi nel cuore del Midwest, un Midwest che generalmente è conservatore, ma questa università fa un po' da polo per tutti gli americani così di ispirazione cattolica, anche se ovviamente poi è un'università aperta a tutti. E cosa succede? Succede che proprio a cavallo di questo suo discorso la base antiabortista si è mobilitata. Hanno trovato che fosse uno scandalo che un'università cattolica aprisse le sue porte, certo, a un, certo, presidente democratico pro aborto, e quindi pro choice e pro life, quindi diritto alla scelta, diritto alla vita, certo, sono i due fronti della guerra culturale che va avanti dagli anni 70 e poi dagli anni 90 e così via, così via. e si sono mobilitati. L'arcivescovo locale ha detto che non sarebbe intervenuto alla funzione, varie personalità che avrebbero dovuto ricevere dei premi hanno cancellato le loro apparizioni, degli studenti si sono mobilitati per creare dei picchetti di protesta e soprattutto i militanti pro-life, dunque anti-aborto, hanno colto la palla al balzo per mobilitare la base, una base militante repubblicana che è un po' spenta in questo periodo, certo, maggioranze da nessuna parte, c'è un presidente democratico da nessuna parte, dico in congresso naturalmente, hanno un presidente democratico, sono un po' così, un po' delusi barra depressi, e quindi ogni qualvolta c'è l'opportunità di trovare un elemento che mobilita lo si prende al volo. Lo abbiamo visto per esempio nella protesta fiscale con i cosiddetti Tea Parties, che hanno avuto un certo successo il 15 di aprile, quando in tutta America sono stati organizzati questi piccoli incontri così ispirati a quello che capitò nella protesta di Boston, quando le colonie americane si ribellarono all'ennesima tassa appunto sul tè, che poi portò all'indipendenza americana. Ecco, questo lo stesso vale per l'aborto, vale anche, devo dire, per un altro tema, e cioè per la riforma sanitaria. Dunque Obama in qualche modo si sta mobilitando su fronti che sono l'emblema stesso di questa guerra culturale. L'aborto da una parte, e di nuovo torno a dire la riforma sanitaria che così produsse una rottura spettacolare all'interno del Partito Democratico, una grossa vittoria repubblicana all'epoca di Bill Clinton, i primi due anni di mandato di Bill Clinton, la conseguenza di quella battaglia fu gravissima per il Partito Repubblicano. Mario, ecco, siamo tornati dopo la breaking news, possiamo continuare. Eccoci, sì. No, dicevo, dunque, questi due fronti, quello della riforma sanitaria che consentì ai repubblicani di coalizzarsi, di conquistare la maggioranza al Congresso, di mettere nell'angolo Bill Clinton nel 94, e quella dell'aborto, sono i due lati della medaglia di questa guerra culturale. Entrambi si sono aperti, perché sulla riforma sanitaria i democratici hanno detto che entro luglio vogliono mettere in discussione in congresso la riforma e portarla in avanti e cercare di estendere il più possibile la copertura sanitaria a livello nazionale, ma ci sono problemi ovviamente di bilancio, di soldi e anche di impostazione. E sulla questione dell'aborto, non dimentichiamolo, c'è in ballo la nomina di un giudice per la Corte Suprema, ed è la Corte Suprema che alla fine ha il potere ultimo in materia di decisione se il famoso Roe versus Wade, e quindi quella famosa decisione della Corte Suprema che diede ragione alla signorina Roe al suo diritto all'aborto e che di fatto legalizzò l'aborto. Parentesi e inciso, questa signorina Roe nel frattempo è invecchiata negli anni e a questo punto invece ha avuto una trasformazione così religiosa e quindi è diventata provita, quindi queste sono le curiosità poi del caso, cosa che ovviamente i democratici vogliono evitare, non vogliono avere una Corte Suprema che vada a cambiare questa famosa sentenza. E dunque la battaglia dei repubblicani è per intimidire un pochettino Obama, per costringerlo a prendere delle scelte in materia di Corte Suprema che siano più centriste che di sinistra, e per mettere comunque i democratici sulla difensiva, perché nel momento in cui i democratici portano avanti questi loro due vessilli, queste due battaglie, soprattutto quella sanitaria che deve essere fatta, mentre invece sulla questione dell'aborto si gioca una battaglia, diciamo così, difensiva di mantenere lo status quo, ecco, allora a quel punto Obama deve saper così percorrere questo sottile cammino tra il perseguire i suoi obiettivi senza dare troppo il destro alla base repubblicana di galvanizzarsi e quindi di organizzare una nuova coalizione simile a quella che negli anni 90 poi alla fine portò una sconfitta di Clinton in congresso. C'è anche grande fermento nella comunità omosessuale, nella comunità gay americana, in particolare nello stato di New York. Anche da qui arrivano delle chiamate a Obama, no? Che arrivano fino alla nomina alla Corte Suprema. Pare che lo stato di New York si stia unendo al piccolo gruppo di stati nei quali vengono autorizzati i matrimoni gay. Che cosa sta succedendo e come può arrivare fino alla Casa Bianca questa questione? Ma dunque io credo che sulla questione dei matrimoni gay si andrà avanti per questa strada, cioè per la strada degli stati. Non credo che Obama aggiunga questo terzo fronte sul piano federale, diventerebbe un'altra patata bollente. Ce ne sono varie, tra l'altro, con cui si deve confrontare. Proprio oggi c'è stata la notizia di un maggiore dell'aeronautica, una donna con 19 anni di carriera, gliene mancava uno per poter entrare in pensione, una donna pluridecorata che era stata usata come esempio nelle operazioni di reclutamento, la quale si è poi scoperto che era lesbica e che aveva una relazione con un'altra donna per un certo numero di anni ed è stata così esonerata dai suoi incarichi. Lei ha fatto causa e quindi Obama deve decidere anche su questo fronte che fare, andare avanti, difendere la posizione dell'esercito, non difenderla. Quindi ci sono una serie di cose aperte, non credo che questo arriverà, la questione dei gay al livello federale. Però è un problema, devo dirti, molto sentito, soprattutto a New York. Io conosco varie coppie di donne e di uomini che non solo convivono o sono sposati, perché alcuni sono sposati all'estero proprio per legalizzare la loro posizione, ma hanno dei figli insieme, o adottati oppure fertilizzati in vitro. E è un fenomeno che a noi forse sfugge in Italia, ma che è quasi normale qui a New York, al punto che a una cerimonia a cui andai in una delle scuole dei miei figli rimasi sorpreso quando a Natale il cappellano introdusse come discorso centrale quello di queste due signore che avevano una figlia più o meno dell'età di mio figlio che andava lì a scuola e ci fu questo discorso prima di loro due e poi di questa ragazzina che chiamava così le sue mamme mami questo e mami quell'altro e quindi erano così pubblicamente non solo accettate ma normalizzate, vorrei dire. Ecco, quindi il dibattito, direi, va al di là del fatto se legalizzare o meno, non è una questione solo teorica, è una questione davvero molto pratica di una gran quantità di coppie che ormai si sono stabilite, vivono la vita normale di coppia, è un po' come si dice, gentrification, si dice in inglese, cioè il fatto che quello che 30-40 anni fa sembrava un movimento di avanguardia dei gay, che sta invecchiando, così una vita alternativa, eccetera, eccetera, a questo punto sta diventando molto borghese, cioè è la rivendicazione dei gay di poter vivere una vita normale, una vita borghese come tutti gli altri. Grazie a Mario Platero, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Allora Paolo, parte seconda, tu hai 20 secondi, 20 secondi per fare l'introduzione. Dico semplicemente che la linea ogni tanto va via, ma non è colpa nostra, quindi abbiate pietà del collegamento, e che ricordatevi che Paolo lavora soprattutto nelle ripetizioni di italiano e di tennis, questi sono i due campi nei quali concentra la sua principale attività, perché ci parla soprattutto del lavoro. Oh, e Paolo, per i nostri ascoltatori casuali, è il nostro eroe, il nostro italiano in Cina. Partiamo dal fronte lavorativo, giusto? Dal lavoro. Sara mi ha messo in contatto, mi ha girato i contatti di una persona facente parte di una società che si occupa di fornire lavori di varie discipline. Io una settimana fa ho mandato l'email a questa persona, un francese, dicendo appunto che sono l'amico di Sara, bla bla bla, però a distanza di una settimana non ho ancora avuto risposta da questa persona. Io da quando sono qua con i francesi comincio ad avere un po' un feeling non ottimale, quindi ormai a questo punto credo non ci spero più di tanto, ecco. Per quello che riguarda me, diciamo il mio, quindi ho ancora un po' incrementato il giro e questa settimana dovrei incrementarlo ancora di un'altra unità, quindi arrivo più o meno a quota 10 tra italiano e tennis. Le mitiche unità di Paolo. Quindi 10 allievi tra tennis e lingua italiana. Fa la sua mesata se la fa. Adesso l'argomento e gli argomenti, sappiamo che la attendete tutti compatti, come vanno naturalmente per Paolo le cose d'amore. Bene, sono stato fino a una settimana fa in solitaria, dopo tanto, perché era tornata dai suoi una settimana, 8-10 giorni in concomitanza con il periodo festivo del primo maggio, che qui era il primo maggio, era festa anche qui, che è durata un po' più a lungo rispetto da noi in Europa. Quindi sono stato una settimana da solo, però non c'è senza nessun problema, insomma. Poi comunque, al di là di questo, le cose tra di noi vanno bene, insomma. È da un po' di tempo, insomma, ecco, che a parte qualche cavolatina ogni tanto, ma niente di che, insomma. Diciamo che le acque da un po' di tempo sono, diciamo che il 2008, l'anno scorso, è stato un po' tribolato, poi per tanti motivi, però come spesso succede, ci è servito un po' ad amalgamarci e a migliorare il feeling, ecco. Quindi diciamo che da un po' di tempo oramai la situazione è abbastanza stabile. È diventato un uomo tranquillo. Un uomo tranquillo, è la storia d'amore con Xiao Shuang, questa bella 25enne di Shanghai. A quanto pare sta decollando sul serio. Va bene, non lo abbandoneremo, continueremo comunque a seguirlo qui da Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, qui c'è Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Fabio Cantadori a Milano. La mail è jefferson2radio24.it, le pagine Facebook sono redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, replica a mezzanotte, podcast sul sito della radio, diretta domani dopo le 4 qui da Radio 24. Ci sentiamo.